una parte il mistero, la fascinazione, la passione che c'è nel mondo scientifico, che normalmente gli umanisti vedono come un mondo fatto di signori in camice grigio, bianco, che guardano i loro microscopi o nei telescopi, invece è un mondo battuto da tutte le passioni umane, quelle altissime, quelle della conoscenza, ma anche quelle, diciamolo, più meschine, l'invidia, la carriera, i finanziamenti e cose di questo genere, ma soprattutto appunto il mistero della scienza di confine. Io penso che ormai soltanto nella scienza si trovino ancora dei territori inesplorati in cui è possibile ancora scoprire tesori, e quindi questo da una parte mi ha avvicinato alla fisica, la fisica che appunto si chiede, come si chiedevano già i presocratici, che cos'è la materia, che cos'è lo spazio, che cos'è il tempo, insomma, da che cosa siamo fatti. Dall'altra parte appunto questo desiderio di cercare finalmente di avvicinare le due culture, quelle che Snow un po' più di 50 anni fa additava come due culture e indicava in questa separazione fra le cosiddette discipline umanistiche e quelle scientifiche, uno dei drammi del nostro tempo, no? Sono passati più di 50 anni da allora, ma la situazione non è cambiata moltissimo, qualche passo avanti è stato fatto, però obiettivamente non si capisce, non si riesce a capire che, come diceva Primo Levi, sono una cosa sola le discipline umanistiche e quelle scientifiche.